Europa 24. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa, un'Europa che fa i conti con l'ormai prossimo, possiamo dire, referendum britannico sulla Brexit, il Remain or Leave, di cui abbiamo parlato e di cui parleremo evidentemente nei giorni a venire. Intanto, dicevamo, il Regno Unito si prepara e arrivano nuovi dati sull'euroscetticismo in Europa e naturalmente all'interno dell'Unione. Secondo un sondaggio del centro di ricerca Pew, i britannici non sono gli unici ad avere dei dubbi sull'Unione Europea. Il sentimento filo-europeo è crollato soprattutto in Francia e in Spagna, toccando le percentuali più basse invece in Grecia. L'Italia, pur vedendo ridotti i consensi, partiva, come sappiamo, da una forte base filo-europea o europeista. Dicevo, l'Italia mantiene una posizione ancora complessivamente favorevole sull'Unione, con il 58% dei pareri favorevoli. Intanto, dunque, Brexit. La Commissione elettorale ha prorogato i termini per la registrazione degli elettori alle liste di voto del referendum, appunto del 23, che in teoria sono scaduti ieri sera alle 23:59, dunque la mezzanotte di ieri. Peccato che il sito sia rimasto bloccato per un intoppo tecnico per parecchie ore, insomma una brutta figura tecnologica che ha indotto alcuni leader dell'opposizione, in particolare il laburista Corbyn e il Lib Dem Tim Farron, a chiedere una proroga, a denunciare l'esclusione di alcuni elettori con addirittura il rischio di un impatto sul risultato finale. Insomma, si scalda anche nelle problematiche e nelle complessità. Intanto ieri sera il primo faccia a faccia televisivo, sentiamo com'è andata. Alive before a studio audience on the biggest political decision. La decisione politica più importante dell'ultima generazione per il Regno Unito, il referendum sulla Brexit, ha portato finalmente sotto il fuoco alternato di domande del pubblico il primo ministro britannico David Cameron, sostenitore della campagna per restare nell'Unione Europea, che il referendum lo ha indetto, e l'oppositore Nigel Farage, leader del partito indipendentista UKIP, che invece l'ha scatenato. 30 minuti a testa sull'emittente ITV per sostenere l'impatto dell'uscita o meno dall'Unione Europea su economia, immigrazione e sicurezza nazionale. Non ci faremo bullizzare da nessuno, tantomeno da Jean-Claude Juncker, ha intimato Farage. Lasciare l'Europa è abbandonare il campo, ma noi siamo dei combattenti e lotteremo all'interno di questa organizzazione per ciò che crediamo giusto, ha ribadito Cameron. Se il risultato del dibattito ha fatto poco per farsi un'idea della direzione che prenderà la Gran Bretagna tra 15 giorni, a scendere in campo nel prossimo scontro televisivo di domani sarà il veemente ex sindaco di Londra Boris Johnson. Intanto da oggi chiuse ufficialmente le registrazioni al voto, che con oltre 480.000 domande ricevute solo nell'ultimo giorno utile hanno battuto i record della commissione elettorale. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Il fatto che la Commissione europea abbia approvato ieri un primo progetto per l'Africa, esplicitamente ripreso dalle proposte italiane, è un passo in avanti, ma non certo la soluzione. Così ha scritto questa mattina sul suo profilo Facebook il primo ministro Renzi. Un passo dunque che naturalmente arriva il giorno dopo quella che è stata anche la presentazione di un rapporto piuttosto complesso, articolato sulla profilo dell'immigrazione. E in estrema sintesi, quello che è stato sottolineato nel rapporto appunto presentato ieri al Parlamento, alla Commissione europea, è che è cambiata proprio la natura delle presenze, cioè sempre più giovani, sempre più immigrati che non hanno competenze, educazione e formazione specifica. Sentiamo. Migranti qualificati cercasi, lavoratori extraeuropei talentuosi in grado di riempire posti rimasti vacanti in alcuni settori, dall'information technology alla sanità. Sembra un paradosso, ma non lo è. La Commissione europea propone infatti di rivedere la direttiva sulla Blue Card, in modo da consentire di reclutare immigrati altamente qualificati, di cui l'Europa ha fortemente bisogno. Varato nel 2009, lo strumento della Blue Card è un particolare permesso di soggiorno per lavoro che viene rilasciato allo straniero altamente specializzato. Ogni paese europeo ha il proprio sistema. Ma secondo il commissario all'immigrazione Avramopoulos, questo strumento è stato finora poco utilizzato, insufficiente, poco attraente. A farne uso in questi anni, infatti, è stata praticamente la sola Germania con oltre 26.000 permessi concessi, mentre l'Italia ne ha emessi solo 258. E in totale solo il 31% dei migranti con livello di istruzione elevato sceglie l'Europa come destinazione. Una perdita non da poco, secondo la Commissione, che stima che con un sistema di blue card più efficiente si potrebbe guadagnare tra gli 1,4 e 6,2 miliardi di euro. Bruxelles propone dunque di unificare le 28 blue card in un unico sistema sulla falsariga della green card americana, di estenderla ai beneficiari di protezione internazionale, di rafforzare i diritti dei titolari, consentendo vie d'accesso più rapide allo status di soggiornante di lungo periodo e un accesso immediato e più flessibile al mercato del lavoro. Queste dunque le proposte della Commissione. Bisognerà ora vedere se i 28 impegnati a tenere a bada i flussi di migranti li accetteranno o meno. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Bene, con questo è tutto per questa edizione. Adesso la linea va a Carlo Genta. A tutti convocati, noi ci risentiamo domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.